voi siete qui, di Matteo Caccia. In collaborazione con l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. La scuola sta per finire. Diversi miei amici mi avevano parlato molto bene dell'esperienza nelle scuole serali con adulti e stranieri. A settembre il destino mi ci stava portando e io non mi sono tirato indietro. Buongiorno a tutti, questa è una puntata speciale del giorno di Santo Stefano in cui sentirete due storie già andate in onda appartenute a quello che definiamo lo spin-off di Voi Siete Qui, cioè i diari di Voi Siete Qui. Nella prima parte sentirete due storie che arrivano, uno da un nostro ascoltatore, da una nostra ascoltatrice per l'esattezza, e l'altra invece dall'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, grazie al quale facciamo questo programma. La prima storia, vi dicevo, è quella di Sandra, che è una docente, è una professoressa e arriva il momento in cui deve cambiare scuola, spera di tornare nella scuola di prima, invece si trova un'altra, ma lì scoprirà un sacco di cose nuove, soprattutto un sacco di persone e di allievi nuovi. È una storia recente, quindi, dei giorni nostri. La seconda invece è una storia che risale a quasi un secolo fa, perché parliamo dell'inizio del 1900, 1912 per l'esattezza. Il protagonista è un frate, un missionario per l'esattezza, che nasce ad Arezzo, si chiama Ruffino Barfucci, e la sua esistenza, gran parte della sua esistenza, la passa in Oriente a fare appunto il missionario. Settembre. Ci ho sperato tanto, ma niente da fare. Non tornerò nella scuoletta in cui ho lavorato lo scorso anno e le prospettive lavorative per quest'anno che viene a ora non sono per niente rose. Voi ti fate per me, vero? 9 settembre. Vado a Lecce a vedere se mi danno un incarico. Temo spezzone lontanissimo da casa. Mandatemi energia positiva. 10 settembre. Adesso vi dico com'è andata. Ho 18 ore serali ad adulti e stranieri. Farò questa esperienza di insegnamento per la prima volta. Lontano da casa, anche quest'anno, e anche quest'anno al mare. Pensavo di uscirne da lì con uno spezzone lontanissimo, invece cattedra intera. Così tutto è iniziato. 17 settembre, ieri la mia prima volta con una classe tutta composta da studenti stranieri in Italia da un mesetto circa. Ce la posso fare. 2 gennaio, ieri alcuni miei alunni hanno compiuto 18 anni e non so se il 7 li troverò ancora in classe, per ragioni che non sto qui a spiegare. Io spero tanto che ci siano, tanto. 29 gennaio, l'espressione piano piano ci accompagna dall'inizio di questo anno scolastico. La ripeto come un mantra a chi si scoraggia e ha paura di non farcela, e capita spesso quando ci si confronta con una lingua difficile come la nostra, come l'italiano. L'altro giorno ho chiesto ad uno di loro, che è qui da settembre, di tradurla ai tanti nuovi arrivati. Lui si è girato e ha detto loro easy, easy, con una padronanza delle sfumature che non può che rendere felici noi professori. E allora easy, easy tutti quanti, ne abbiamo bisogno anche noi. 9 febbraio. Stanotte, anche nei sogni, mi sforzavo di tradurre tutto in inglese. 12 febbraio. Professoressa, lui niente italiano, only fanculo. 25 febbraio. Da qualche giorno in classe ci sono anche delle uditrici, un inglese e un'americana. E se questo fatto fino ad un po' di mesi fa mi avrebbe messo in crisi, che figuracce farò con il mio inglese, mi sarei chiesta, adesso invece sono molto più serena. Perché il mio inglese sta migliorando, dai e dai, tutti i giorni, perché i ragazzi straordinari mi danno una mano, perché qui non sono solo io, la prof, ma facciamo un po' tutti a turno i professori, perché quello che conta non è chi sa e chi sa di più, ma farcela tutti, riuscire a capire tutti quanti, una comunità che impara insieme con il contributo di ciascuno. 27 marzo. Capita ogni tanto che i ragazzi a scuola litighino e tu devi fare da mediatore. Ora, prova a fare il mediatore in un diverbio tra ragazzi stranieri che provengono da continenti diversi e che non hanno nessuna lingua ponte. Anzi, per loro la lingua ponte è l'italiano, che tu stai insegnando loro da pochissimo, per cui ne conoscono 4 parole in croce e tu ovviamente non parli le loro lingue. Alla fine di quest'anno scolastico, spero, sarò una persona fortissima. 31 maggio. Ci siamo. La scuola sta per finire. Diversi miei amici mi avevano parlato molto bene dell'esperienza nelle scuole serali con adulti e stranieri. e dentro di me c'è sempre stato il desiderio di insegnare in una di queste scuole almeno una volta nella vita. A settembre il destino mi ci stava portando e io non mi sono tirato indietro, non potendo in quel momento avere neanche lontanamente l'idea di che anno avrei vissuto. Le note che ho scritto ve l'hanno raccontato un po'. Le ho condivise su Facebook da settembre ad oggi. Durante i primi mesi ne ho scritte poche, poi via via che i giorni passavano e il rapporto con i ragazzi cresceva, sono diventate tante. Io me le tengo tutte strette, ringraziando la vita per essere stata così generosa con me, mettendo sulla mia strada i miei alunni di quest'anno. E citando un alunno che purtroppo ad aprile è dovuto andare via insieme ad altri compagni, trasferiti in un'altra nuova comunità, a tutti quanti i miei studenti voglio dire che Dio vi benedica e lunga vita a tutti voi. Era chiaramente molto più lungo il diario di Sandra che ci ha inviato, perché era l'intero diario di un anno scolastico. Io ne ho preso solo alcuni pezzi, l'inizio, in mezzo, alla fine, e ve l'ho raccontato in questa puntata speciale dei diari di Voi Siete Qui. Sandra, buongiorno! Buon pomeriggio Matteo, ciao Sandra. Saluto tutti gli ascoltatori. Come stai? Bene, bene, tutto bene, grazie. Dove ti trovi in questo momento? In questo momento sono a scuola, sto per entrare in classe con i miei ragazzi. Continuo a lavorare di sera, al serale, sempre con adulti e stranieri. E infatti, esatto, volevo chiederti se come funziona ancora la tua vita. Stai ancora insegnando in quel tipo di scuola, giusto? Sì, la mia vita continua ad andare avanti come, insomma, come ho raccontato nel diario. Anche quest'anno, per il secondo anno, lavoro in un serale. Sono sempre un'insegnante precaria, quindi devo aspettare settembre, no? Per sapere il mio cosa destino. Succede. E anche quest'anno è arrivato un incarico alla scuola serale. Io l'ho scelto veramente con molto piacere, ci sono tornata veramente con molto piacere dopo l'esperienza dell'anno scorso di cui ho detto nel diario. C'è vento forte, dove ti trovi esattamente? Sì, ora sono in cortile. Ma in che arrivino? Ci ricordi esattamente in quale parte dell'Italia? Sì. Così? Io sono a Ugento, che è un paese che si trova in provincia di Lecce, siamo in Puglia. Ok. Sandra, i ragazzi che hanno vissuto con te quell'anno scolastico lo scorso anno e comunque anche sì. Quest'anno, sono ragazzi che vivono lì, sono invece persone che sono temporaneamente lì perché vivono in centri particolari? Che tipo di situazione è quella in cui vivono? Sì. Sono situazioni differenti, ci sono tanti minori non accompagnati, ragazzi che sono arrivati qui con i barconi, no? Quelli che noi vediamo in televisione. Essendo minori non accompagnati, poi vengono accolti nelle case famiglia e quindi vivono lì seguiti da operatori ed educatori. Poi ci sono invece degli stranieri che vivono qui già da diversi anni, che sono venuti qui alla ricerca di un futuro migliore, quindi lavorano, sono residenti proprio nel paese nel quale si trova la scuola e vengono a scuola per conseguire la licenza media, per migliorare la loro conoscenza della lingua italiana. Sostanzialmente sono queste le due situazioni per quanto riguarda gli stranieri con cui mi confronto, ma ci sono anche tanti adulti italiani o anche ragazzi italiani dai 16 anni in su che vengono a scuola da noi, che non hanno preso la terza media e quindi vengono per conseguire la licenza media. Sandra, tu insegni esattamente italiano, giusto? Io insegno, sì, italiano per stranieri italiano e poi stranieri. Italiano, storia e geografia nella terza media, nel corso di licenza media. Esattamente, da quanto lo fai tu, Sandra? Allora, io sono un'insegnante precaria da 11 anni. Ah, ok. Quindi, insomma, giù per l'Italia, in giro per l'Italia, sì, da 11 questo anni. Questo lavoro lo fai da un po' di tempo. Però sì. Rispetto alla scuola serale, quindi alla scuola perdonami, per adulti e per stranieri che vogliono imparare l'italiano, se dovessi trovare un modo per definire il tuo metodo di insegnamento, hai trovato qualche piccolo segreto, qualche modo che hai capito che funziona in questo caso con questi allievi? È una domanda molto difficile, Matteo, nel senso che io lo scorso anno mi sono dovuta veramente rimettere completamente in discussione, perché una cosa è affrontare una classe di ragazzi certo. Che parlano la tua stessa lingua, una cosa è confrontarti con dei ragazzi che parlano una lingua molto distante dalla tua e a volte non avere neanche una lingua ponte, no? Certo, per come poter, racconti nel diario. Una certo. Lingua ponte, sì, io conosco l'inglese ma non tanto bene e quindi bisogna trovare il modo, reinventarsi ogni volta, ogni giorno. Ogni volta è diverso, provare, quindi. Sì, provare, certo. provare e riprovare. Al centro di tutto però, quello che anima questo lavoro, al centro di tutto c'è il cuore, cioè c'è la voglia di comunicare con queste persone, di trovare un punto di incontro. Lo immagino. Quello è il punto di partenza. Voler chiaro, parti un da punto lì di e poi insomma ogni giorno cambia. Arriva. Prima di salutarti definitivamente, mi dici 4-5 nomi degli allievi che hai ad esempio in classe a breve? In classe? Sì. Vuoi i nomi dei miei alunni? Sì, dei nomi. Allora... Sì, li saluto anch'io allora attraverso questa trasmissione radiofonica. Tahir, che è un ragazzo afghano che sta con me dallo scorso anno. Dimmi solo i nomi, altrimenti non ce la facciamo, Sandra. Tahir. Allora, Tahir, Guled, Khalid, Mustafa e Sargio. Grazie mille, Sandra, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Just as long as it is our time. No, it don't have to be for a long time. Just as long as it is our time. Our time. Storie ordinarie, storie di pagine di diario che ci inviate, che avete, se avete voglia, ci inviate a voi, siete qui @radio24.it, ma anche storie straordinarie che ci arrivano grazie all'Archivio Nazionale dei Diari di Pieve Santo Stefano, che ha selezionato tra i finalisti del premio Pieve di quest'anno, ricordiamolo, il 30° premio di quest'anno, alcune pagine che ci hanno di fatto regalato e noi per questo le ringraziamo. Ed è arrivato il momento di raccontare alcune di queste pagine. La storia che sto per raccontarvi, le pagine che sto per raccontarvi appartengono alla vita di un missionario, Ruffino Barfucci, nato, che ha raccontato la sua storia di missionario in Cina. Infatti il titolo di questo diario è Dalla Verna, che è un luogo in Toscana dove lui cresce e si forma, a Chai and Co, che invece è il luogo in cui lui si dirige prima come giovane missionario e poi diventa direttore di quella missione. Sono memorie che vanno dal 33 al 53. Io in realtà vi leggerò solo una piccola parte di queste sue memorie, che più o meno è l'arrivo, come comincia tutto. Lui ha poco più di 20 anni, parte dall'Italia e va in Cina, in un luogo in cui, diciamo, per i cristiani, per i cattolici non è proprio tanto da ridere, perché Mao ha preso il potere e infatti nelle sue pagine si raccontano anche di uccisioni, di sevizie, e lui riesce davvero a salvarsi, per pochissimo riesce a tornare a casa e quindi a scrivere queste memorie. La storia di Ruffino appunto è una storia straordinaria che inizia all'inizio del secolo scorso, più o meno, no? Attorno al 1900 al 1920, prende, parte e arriva in Cina. Immaginatevi che cos'è la Cina in quegli anni, immaginatevi che cosa può succedere. Io non lo so e devo dire che grazie alle pagine di Ruffino lo scopro. Ringrazio ancora soprattutto l'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano, che ogni settimana ci fornisce queste pagine preziosissime. Se invece voi avete voglia di inviarci i vostri diari, voi siete qui @radio24.it. adesso fermatevi da quello che state facendo, tornate a quasi un secolo fa e ascoltate le pagine del diario di Ruffino. Mi chiamo Ruffino Barfucci. Sono nato a Caprese Michelangelo, provincia di Arezzo, l'11 di settembre del 1912. Nel settembre del 1923 entrai nel Collegio Serafico di San Romolo a Figline Valdarno e dopo il quarto anno di ginnasio feci il noviziato alla Verna. Ai primi di ottobre del 1923 cominciai gli anni di teologia. Partii per la Cina il 10 agosto del 1933. Come è chiaro, non ero ancora sacerdote. Avevo 21 anni ed avevo appena terminato il primo anno di teologia. Alla partenza eravamo guidati da padre Germano Lazzeri, uno dei superstiti della tragedia del Chai and Co nel maggio del 1931, quando le orde rosse di Mao, guidate dal generale Ho Lung, devastarono la missione, uccidendo 4 sacerdoti cinesi e facendo morire in cattività per gli stenti e le malattie padre Igino Checcacci e fra Luca Santini, mentre lo stesso vescovo, monsignor Ermenegildo Ricci, moriva all'ospedale cattolico di Lao Kou subito dopo il rilascio avvenuto nel mese di novembre. Padre Lazzeri, rilasciato nello stesso mese, venne poi in Italia per curarsi e trovare nuovi rinforzi di mezzi e di missionari per tornare in Cina. Ora poteva dirsi contento del suo compito. Salpammo da Brindisi sul bellissimo piroscafo italiano Conte Verde del Lloyd Triestino e dopo 23 giorni di felicissima navigazione approdammo a Shanghai, il più grande porto della Cina. Da Shanghai, risalendo con un vaporetto il maestoso fiume azzurro, ci portammo ad Hankou, grande centro commerciale e amministrativo, posto quasi al centro della Cina, alla confluenza del fiume Han con il fiume azzurro. Finalmente, quando il 2 ottobre, a sera, dopo 2 mesi di viaggio per mare e per terra, terribilmente stanchi ma tanto contenti, mettemmo il piede nel chiostro di quella che chiamavamo la Verna cinese, trovammo tutti i seminaristi, i giovani della scuola catechisti, i domestici e numerosi cristiani schierati con tutti i padri cinesi ed esteri, presenti sotto i colonnati di legno del chiostro, pronti a fare un solenne ricevimento al nuovo superiore e al parroco Padre Guerra e a noi, i missionari novelli. Scroscia un fragoroso battimani. No, mi correggo. I battimani in Cina, almeno a quel tempo, non erano in uso. Esce dunque, dalle file, un giovane e con voce tonante grida: attenti, al nuovo superiore e ai novelli missionari, un inchino. Un altro inchino, un terzo inchino. Tutti abbassano profondamente il capo, tenendo le mani stese lungo i fianchi. Dopodiché esplodono migliaia di mortaretti con un fracasso ed un fumo infernali, mentre rullano i tamburi e squillano le trombe. I giovani della scuola catechisti avevano infatti 2 trombe e 2 tamburi che facevano funzionare come meglio potevano. A me piacque la festosa e rumorosa accoglienza e mi vennero anche le lacrime agli occhi, non per la commozione, no, ma per via di tutto quel fumo acre di zolfo lasciato dallo sparo dei mortaretti. Straordinarietà dell'ordinarietà della vita quotidiana nei diari degli ascoltatori, in quello di Sandra che avete ascoltato, in prima parte di puntata, e invece l'eccezionalità della vita di persone come Ruffino Barfucci, inviateci attraverso l'archivio dei diari di Pio Santo Stefano, attraverso il suo diario, quello che potete trovare. Andate a cercare informazioni su di lui, che veramente aveva una storia incredibile. Questo era solo l'arrivo in Cina e poi lui, dopo l'arrivo, ne subisce di tutti i colori. Se avete voglia invece di condividere i vostri diari, voi siete qui @radio24.it, magari oggi in questo pigro sabato pomeriggio avete voglia di andare a cercare, scartabellare in giro, trovare e, ripeto, ahimè, trascrivere una paginetta di un vostro diario, una scelta, uno che in qualche modo racconta chi eravate quando avete scritto quelle pagine. Grazie a tutti, grazie ovviamente a Fabio Cantadori, grazie a Miriam Lucchetti, grazie a Tiziano Bonini, grazie soprattutto a Ruffino e a Sandra, perché i diari di oggi erano i loro e anche loro sono 2 punti rossi su una mappa. I keep remembering the horses. Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. I diari di Voi siete qui di Matteo Caccia, in collaborazione con l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Non c'è via che quando torno a casa il mio cuore non si riempia di gioia e non si riscaldi al pensiero di trovare te che mi aspetti. Cosa farei se non ci fosse più quella luce? E per per questa seconda parte dello speciale degli Ari di voi siete qui, raccontiamo altre due storie. La prima che raccontiamo è una storia che ci è arrivata dall'archivio diaristico nazionale, la seconda invece è una storia che ci è arrivata da una nostra ascoltatrice. La prima è una storia molto particolare, è una storia di cui di fatto si capisce abbastanza poco. È una storia d'amore, è una storia che racconta uno scambio epistolare, sono di fatto tutte le lettere che queste due persone si sono scritte nell'arco di diversi anni. Parliamo di Andrea e di Lorenza, che poi sentirete al telefono ovviamente, ma non si riuscirà a capire benissimo qual è il rapporto che li lega ancora e qual è stato il rapporto con gli allegati, di amore profondissimo, questo è evidente. Vi leggo giusto un pezzo di quello che ci ha mandato l'archivio per farci capire di che storia stiamo parlando. Il rapporto tra Andrea e Lorenza vivrà fasi alterne, prima appassionato e intenso, poi debole, come se riflettesse le fragilità e le insicurezze di ciascuno. Superando intimi conflitti e accantonando problemi irrisolti, si uniscono in matrimonio nel 1984. Poi però, puntini. Questa, vi dicevo, è la prima storia di questa seconda parte della puntata. La seconda invece è la storia di Nonno Guido, è una storia molto più chiara, molto più semplice. È un diario che il nonno dell'ascoltatrice di Francesca, che chiaramente ce l'ha inviato, ha tenuto durante gli anni della guerra, quando lui era giovane e viveva quella vita lì che più o meno noi conosciamo grazie spesso ai racconti dei nostri nonni. È uno dei vari diari che ci è arrivato che parla di guerra. Il diario di Nonno Guido, ma prima Andrea e Lorenza. Dicembre 1977. Caro amore mio, sono già due ore che attendo invano lo squillo del telefono e quindi mi sono deciso a scriverti. Il pensiero che oggi probabilmente ti vedrai con Andrea e poi chissà cosa succede mi fa risaltare la fragilità della mia persona, che non può aver inciso così tanto nella tua vita da non farti pensare più a lui. Come vedi, mi basta così poco per ricadere nel vizio dell'autosfiducia, ma stavolta ti assicuro, avverto come non mai la presenza di un'altra forza, l'amore che provo per te. La tua lontananza ha rafforzato, rivalutato questo amore, e mai come in questi giorni mi appare preziosa la tua esistenza. Mio padre mi ha tagliato la barba, ma solo un po', e per quando ci vedremo sarà come prima. Per il Capodanno se ne parlerà in seguito. Spero di ricevere tue telefonate e lettere che sai mi faranno felice. Lo ascolti mai, il nostro disco? Io sempre, nella mia mente e nel mio cuore. Quando vengo vorrei trovare le tue unghie più lunghe. Ora ti lascio, perché è già mezzanotte, e vado a imbucare la lettera. Con tanto amore, tuo Andrea. Ore 15 circa, Firenze, 28 dicembre 1977. Caro amore, la tua lettera mi ha provocato un grosso conflitto interiore. La Lorenza sentimentale, tenuta a freno fino ad ora dalla Lorenza razionale, è saltata su per ribellarsi, tentando di occupare tutto lo spazio a disposizione. Ma l'altra ovviamente oppone una forte resistenza e forse farà pagare un duro prezzo per questa alzata di cresta improvvisa e insospettata. Per cui, ti avviso, sono da attendere atteggiamenti rigidi nei tuoi confronti per evitare di essere avvolta nella tua tela più del dovuto. Il desiderio e il bisogno di stare con te, di accarezzarti, di baciarti, ciò che provo facendo all'amore, sono sensazioni e sentimenti più vivi, più mossi, più tinti di passionalità, di irrazionale, e forse per questo più soggetti a passare. Importante è che tu comprenda tutto questo e non tenti di soffocarmi con il tuo amore, perché io non posso stare rinchiusa in un rapporto a due. Ho bisogno di altre persone, perché in una sola non posso spaziare. Lorenza. Gennaio 1978. Sono un uomo e come tale ho bisogno di essere o accettato o rifiutato. L'amore si dichiara sempre, senza paura e con disinteresse. Se comunque speri di avermi fatto regredire a come ero prima, stavolta ti sbagli. Stavolta esisto anche senza di te e ce la farò. Non auguro a nessuno le tribolazioni che mi hai fatto patire. Prima di lasciarti voglio solo maledirti ed esprimerti tutto l'odio e tutto il disprezzo che serbo nel più profondo della mia anima, affinché ti penetri dentro e ti serva a qualcosa, dato che dell'amore non sai che fartene. Se in me cercavi solo il sesso, mi hai offeso e non te lo perdonerai mai. Ti supplico, caro amore, amalo un po' di più, questo amore, perché è una cosa grande, la più grande, e non va temuto. Andrea. Firenze, 23 gennaio 2004. Mio tenero amore, ti ricordi quante lettere ci siamo inviati pur abitando nella stessa città? Durante la tua assenza ne ho riletta qualcuna, provando acuta nostalgia per una forma di comunicazione che ad entrambi è appartenuta e da tempo abbiamo esiliato. Ciò che agitava la nostra vita personale, problemi concreti, aspirazioni esistenziali e il nostro complesso rapporto d'amore, gli scontri feroci, i possenti desideri fisici, i continui abbandoni, la tenerezza strisciante. Ecco, tutto questo pulsa come sangue vivo nelle vene. Racchiusa in una torre inespugnabile, ti avevo concesso il diritto dovere di amarmi, ma da quell'altezza non sentivo più il legame con la terra, con l'integrità della mia natura. Tu, nel frattempo, rotolavi a valle. Siamo riemersi più forti, più puri, più consapevoli. Lorenza. Firenze, 21 febbraio 2004. Lorenza, mio dolcissimo amore, riprendo in mano solo stamattina le tue lettere. Le tue parole, preziose perle di quello scrigno inesauribile qual è la tua anima coraggiosa, mi hanno colpito al cuore e hanno dato voce e vita alle emozioni che la lettura delle nostre lettere via via mi evocava. Emozioni contrastanti, perché fatte di nostalgia, rimpianti, felicità e tristezza, ma che non avrei avuto il coraggio di affrontare senza le tue parole. Hai espresso in modo mirabile e per me commovente le nostre reciproche e parallele metamorfosi in questi anni, e ne condivido pienamente i toni, ma è nell'oggi che mi voglio concentrare. Su questa perdita dell'intimità e della tenerezza che da tempo ci affligge e di cui entrambi abbiamo bisogno, come dell'aria per respirare. Perché non c'è via che quando torni a casa il mio cuore non si riempia di gioia e non si riscaldi al pensiero di trovare te che mi aspetti. La fioca luce delle candele, l'atmosfera avvolgente e rassicurante che pregusto non appena entro nel giardino e vedo quella luce filtrare dal vetro. Mi domando con sgomento cosa farei se quella luce non ci fosse più. Andrea. Wasn't hard to love you. Didn't have to try. Wasn't hard to love you. Didn't have to try. Held you for a little while. My own, my own, my. Held you for a little while. My own, my, oh my. L'epistolario, le lettere che si sono mandati Andrea e Lorenza erano molto di più, potete immaginare, perché è una storia che dura da oltre 30 anni, da quasi 40 sostanzialmente. È una relazione quantomeno epistolare, questo è quello che noi abbiamo e che ci è arrivato grazie all'archivio dei diari di Pieve Santostefano. Loro però esistono, ci sono due persone che vivono in posti diversi, che ci hanno inviato questa storia e che sono al telefono con noi. Buongiorno Andrea. Buongiorno. E buongiorno Lorenza. Buongiorno. Andrea, che cosa fai adesso nella vita? Ma io faccio il medico omeopatico, lo psichiatra, libera professione a Firenze. Lorenza, tu invece che cosa fai? Ma io di solito scrivo oppure faccio la persona libro. Persona libro è quella che impara dei brani a memoria per trasmetterli nelle scuole, ai giovani, negli ospedali, nelle librerie. È preso da Fahrenheit 451 di Bradbury. Io entrerei un po' nel merito, se vi va, visto che sì, ci siete. Lorenza, partirei proprio con la domanda delle domande. Perché, sì. Perché viene fuori, no, dal vostro epistolario, da questa storia, una concezione molto privata, no, dell'amore e dello stare insieme. E quindi partirei da qua. Tu mi sapresti dare una definizione dell'amore? Quello che hai capito negli anni della tua vita, nel rapporto con Andrea o in generale? È la domanda delle domande, è una cosa impossibile rispondere a che cosa è l'amore. L'amore è dono di sé, è piacere di stare con l'altro, è condividere delle cose, tante cose, come si fa a definirlo in due parole? Però siccome io ho letto dei brani, delle vostre lettere che sono molto lontani negli anni, no? Una parte era, credo, probabilmente l'inizio era il 77, sì, e l'altro invece era il 2004. Le cose che tu hai scritto, Lorenza, nel 77 sono le cose che pensi ancora oggi, oppure è cambiato il tuo approccio alla vita? Ma diciamo, riguardo all'amore, sì, sono le stesse cose, perché io ci credo profondamente, anche se purtroppo non sono riuscita a realizzare questo ideale di un rapporto di amore un po' particolare, insomma, ecco, dove l'uno fa specchio all'altro per una crescita comune. Adesso, perdonatemi, facciamo che se ci sono delle domande a cui non volete rispondere non mi rispondete, così è più facile. Lorenza, tu hai una relazione, sei sposata, hai un compagno? No, attualmente no. Attualmente no. E Andrea, tu invece? Ma diciamo sì e no. Ok, okay, questo era un bel modo per dire non ho voglia di risponderti. Andrea, senti, invece tu quanto ti rivedi in quelle lettere? Parlo chiaramente di quelle più lontane, no? Quelle del 77, che sono quasi 40 anni. Ma diciamo che ora nel riascoltarle provo sempre una forte commozione, perché effettivamente è quello che ho vissuto intensamente in quegli anni e quello che mi ha coinvolto per praticamente gran parte della vita, insomma, nel rapporto con Lorenza, che è stato in assoluto il rapporto più importante della mia vita e penso che resterà tale. Quindi i contenuti, anche se abbastanza forti, diciamo, dati dal momento, dalla fase dell'innamoramento, no, della passione, sono comunque sempre validi, cioè potrei sottoscriverli, anche se naturalmente con toni diversi, dati un po' dalla maturità che uno acquista con gli anni. Chiaro. Diciamo, i contenuti fondamentali sono gli stessi, ovviamente. Andrea, scusami, vi vedete ancora con Lorenza? Cioè, vi frequentate oppure vi continuate a scrivervi? Sì, no, continuiamo a scriverci, diciamo, anche per email, abbastanza di frequente, con una certa, come dire, frequenza e regolarità, e poi ci vediamo perché abbiamo in comune un cagnolino che quindi ci scambiamo. Ah, ok. Chi è che dei due ha deciso di inviare questo scambio epistolare all'archivio dei diari, che poi è arrivato grazie a loro qui a noi, ai diari di Voi Siete Qui? Beh, è stata un'idea di Lorenza, devo dire, lo scorso febbraio me l'ha proposto e io ho accettato, anche se non potevo mai immaginare, conoscevo così a grandi linee questo concorso, ma era assolutamente, cioè non pensavo mai che potessimo arrivare in finale, quindi è stata una sorpresa bellissima e un evento, diciamo così, inaspettato, ma di cui sono stato molto felice. Comunque è stata Lorenza ad avere l'idea. È stata Lorenza. Lorenza, e poi purtroppo devo salutarvi. Che cosa, a te ho deciso che faccio le domande delle domande, Lorenza. Purtroppo, sì. Purtroppo ti sei presa questo ruolo. Che cosa ti aspetti dall'amore che ti manca, degli anni che hai da vivere ancora? Cosa mi aspetto? Sì. Ma una sorta di risarcimento. Va bene, io vi ringrazio, è stato un piacere parlare con voi, e anche se effettivamente ammetto che da fuori è piuttosto complicato, no, interpretare, anche perché sono quasi 40 anni di vita scritta, vissuta, è un po' difficile da interpretare, però vi ringrazio per averla condivisa prima con l'archivio dei diari e poi con noi e con tutti gli ascoltatori. Grazie Lorenza, grazie Andrea. Bene, ciao. Ciao. Grazie a lei, arrivederci. In bocca al lupo, arrivederci, grazie mille. Erano Andrea e Lorenza che avete appena sentito. Adesso noi diamo la linea al traffico e poi torniamo con i diari di Voi Siete Qui, raccontando un'altra storia, un diario completamente diverso. I diari di Voi Siete Qui, in collaborazione con l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. più che la fotografia. So che l'avevo chiesto io, so che ero stato io a dire scattate delle foto, avevo fatto un po' il figo, l'avevo fatta fuori dal vaso, scattate delle foto ai vostri diari, diari di vostri nonni, trovate nei cassetti e inviateceli. Poi quando ho cominciato a arrivarci, vedete qua, chi riesce a leggerla sta roba? Per cui se magari riuscite a interpretare meglio la grafia di un vostro parente o di uno sconosciuto che l'ha lasciato nel cassetto che vi siete trovati in casa, o che magari anche semplicemente avete scritto voi ma avevate una grafia diversa, è un po' meglio, ce li trascrivete in formato Word qualunque, una pagina, e ce la inviate a voi siete qui @radio24.it. aveva già fatto così preventivamente Francesca, che ci ha mandato una mail dicendoci: ho cominciato a pubblicare online i diari di mio nonno Guido Riminese del 1902, che nel 92 scrisse le memorie della sua vita in forma di diario. Una vita così ordinaria e straordinaria allo stesso tempo. Lei quindi ci ha mandato dei link al blog del nonno, che lei ha chiamato, credo lei, il blog di nonno Guido, immagino, non lui, anche se non sarebbe male immaginare che lui si scrive si chiama nonno Guido. Giunto alla bella età di 90 anni, ha scritto, ho pensato di fare cosa gradita a voi che mi conoscete, volgendomi indietro per ripercorrere insieme, quasi tenendoci per mano, questi lunghi e laboriosi anni. Nel ricordo della mia adorata Teresina dedico a tutti voi questa testimonianza ricordo. E così è arrivata a noi, ce l'ha mandata Francesca. La storia è un diario, è un ragazzino, siamo durante la guerra sta finendo e lui deve semplicemente andare a prendere del cibo. Il problema era trovare da mangiare. Tutto si vendeva a mercato nero. Avevamo rimediato un po' di patate e qualche cipolla. Colui che mi aveva venduto le poche cipolle mi disse che per averne buone e dolci bisognava andare a prenderle a Sant'Arcangelo e mi indicò la strada. Passando da San Martino dei Mulini, dopo aver oltrepassato la fossa dell'acqua che alimenta i mulini stessi, dovevo prendere il quarto viottolo a destra. Mi dovevo inoltrare per 100 metri e dovevo voltare a sinistra in un altro viottolo che portava a una casa colonica dove vendevano le cipolle. Mi disse che quando era andato a prenderle arrivavano ancora le granate, ma erano passati 5 giorni e forse non arrivavano più, essendo i tedeschi ora in ritirata. Una mattina allora partii presto in bicicletta con un sacco. Feci il percorso che mi aveva indicato, portando con me un bastoncino per pulire le ruote, perché essendo le strade molto fangose ogni tanto bisognava togliere il fango che si incastrava fra le ruote della bicicletta e il parafanghi. Tutto era calmo. Arrivai alla casa colonica, riempii il sacco di cipolle, pagai e prima di partire domandai al contadino se arrivavano ancora delle granate. Lui mi disse che ero stato fortunato perché ero arrivato in un momento di pausa e che quella mattina stessa ne erano arrivate parecchie. Ripartii subito, ma avevo fatto pochi passi che cominciarono ad arrivare le granate da destra e da sinistra. Mi trovavo in mezzo a questo inferno. Credevo di non uscirne più vivo. Mi rivolsi a Dio e alla Madonna perché si rivolgessero al buon Gesù per implorarlo che mi salvasse la vita. Le ruote della bicicletta erano piene di fango e non volevano girare, e io la trascinai come potevo. Arrivata a una certa distanza mi fermai perché non ne potevo più. Con santa pazienza, col bastoncino, levai il fango dalle ruote e ripartì, cercando di camminare il più svelto che potevo. Ma il fango mi ostacolava, dovendo camminare per stradellini di campagna, la terra bagnata continuava a bloccare le ruote. Finalmente però raggiunsi la strada statale. Pulì ancora le ruote e partì a tutta velocità, ringraziando Dio e la Madonna per avermi protetto, e arrivai a casa col mio sacco di cipolle. mio pezzo preferito del diario di Nonno Guido è quello in cui lui dice a un certo punto: mi rivolsi a Dio e alla Madonna perché loro si rivolgessero al buon Gesù per implorarlo che mi salvasse la vita, perché evidentemente andare dritto a Gesù era un po' complicato. Questa era una pagina del diario di Nonno Guido. Ringraziamo la Francesca, la nipote, che ce l'ha inviata. Se per caso volete leggere qualcosa di più, magari poi mettiamo anche il link. Comunque il blog è nonnoguidowordpress.com, appunto il blog di Nonno Guido. Finito anche questo sabato, vi lascio liberi la domenica. Le repliche, giusto? Ci sono delle repliche del programma che sono praticamente domattina alle 5, quindi voi tutti che andate in discoteca questa sera, all'uscita potrete godervi la replica dei diari di Voi Siete Qui. Ringrazio Paolino Corleoni, Tiziano Bonini e Miriam Lucchetti, ringrazio soprattutto Andrea e Lorenza e Nonno Guido, perché le storie di oggi erano le loro e anche loro sono dei punti rossi su una mappa. Still don't know what I was waiting for, and my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. I've never caught a glimpse. Voi Siete Qui.